Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza di produttori di caffè consuma 30 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda maggioranza trattata nella mia vita. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni ambientali. Tutto il mondo si beve caffè. Dopo Cristo, la Corea del Nord, con il sostegno della Cina, invade la Corea del Sud, al cui fianco si schierano gli Stati Uniti d'America. Il senatore statunitense Joseph McCarthy, del Partito Repubblicano, scatena una caccia alle streghe volta a scoprire presunti complotti comunisti contro gli Stati Uniti, che prenderà il nome di McCarthyismo. La Repubblica Popolare Cinese invadeva il Tibet. 1951. Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi istituiscono con il Trattato di Parigi la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, CECA. Winston Churchill viene rieletto primo ministro. Il vecchio leone, che assicura di voler lavorare per la pace, è al culmine della popolarità. 1952. Scienziati americani fanno esplodere la prima bomba all'idrogeno. Il terrore di una nuova guerra mondiale fa tremare il mondo intero. 1953. Il 5 marzo muore Stalin. La guerra di Corea si conclude con l'armistizio di Panmunjom. La Germania, dopo il fallimento della conferenza di Berlino, resta divisa. La Germania Est diventa uno Stato indipendente con il nome di Repubblica Democratica Tedesca. 1954. A novembre inizia la ribellione dell'Algeria contro il governo francese per chiedere l'indipendenza. È l'inizio della decolonizzazione, quel processo che porterà alla fine degli imperi coloniali che i paesi europei avevano creato nel XIX e nel XX secolo. 1955. L'URSS costituisce con i paesi satelliti Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Albania e Germania Est il Patto di Varsavia. 1956. Nikita Khrushchev, nuovo leader sovietico, denuncia i crimini di Stalin e avvia il processo di destalinizzazione e di distensione con l'Occidente. La guerra fredda conosce un periodo di decadenza. Le dichiarazioni di Khrushchev spingono la Polonia a insorgere contro il regime comunista. Ancora più violenta è la protesta che scoppia in Ungheria a ottobre. I rivoltosi chiedono carri armati, chiedono libertà di stampa, elezioni libere e ritiro delle truppe sovietiche. L'Unione Sovietica invia i carri armati a novembre e reprime con violenza durissima la rivolta. L'Egitto nazionalizza il canale di Suez provocando l'intervento armato di Israele, Inghilterra e Francia. 1957. Nasce a Roma la Comunità Economica Europea, che si propone l'abbattimento delle frontiere doganali e la libera circolazione delle merci e dei lavoratori. Il Ghana è il primo paese dell'Africa a ottenere l'indipendenza. 1958. Muore Papa Pio XII. Gli succederà Papa Giovanni XXIII al secolo Angelo Roncalli. 1959. De Gaulle ritira le truppe francesi dall'Algeria e concede l'indipendenza al paese arabo. A Cuba, Fidel Castro rovescia il regime di Batista e instaura una repubblica socialista che si avvicina all'URSS. Storico incontro a Camp David fra il presidente statunitense Eisenhower e il premier sovietico Nikita Khrushchev. È la prima volta dall'inizio della Guerra Fredda che i leader delle due superpotenze si incontrano. È l'inizio della distensione. La Cina, dopo aver invaso ed occupato nell'ottobre del 50 il Tibet, soffoca nel sangue i moti insurrezionali tibetani, scoppiati nel marzo 1959. Il Dalai Lama riesce a fuggire in India, dove riceve asilo politico e stabilisce il governo tibetano in esilio. Sì, però che palle tutta sta storia, oh. Sì, infatti a noi che ce ne sbatte, cioè alla fine è giusto perché, no, influenza la musica che si produce in quegli anni, no? Boh, sì, è un discorso un po' complicato, cioè potremmo andare ad analizzare effettivamente la situazione di Nikita Khrushchev, Fidel Castro, ed... astratto. Però è astratto, astratto. Quindi potremmo sì, anche... è abbastanza astratto, l'unica cosa di concreto che c'è in questo momento è un caffè doppio che alle 17:07 primi, questo 20 maggio 2012, vi dà il bentornato e bentornate all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, una domenica di nuovo piovosa dopo come al solito. Aspettando le campane di San Lorenzo alle 17:30 spaccati. Spaccati. In effetti anche domenica scorsa aveva piovuto un pochino. No, domenica scorsa c'era un sole favoloso. Capra. Capra. Era un sole favoloso. No, vabbè, comunque noi abbiamo fatto a mezzanotte meno due, tipo. Ah. Ti ricordo. Abbiamo fatto, cambiando discorso, questa carrellata storica dal 1950 al 1959, perché il tema della puntata di oggi è proprio gli anni 50, non dal punto di vista storico, ma dal punto di vista musicale. Intendevi dire questa rottura di palle? Vabbè. E dato che stiamo parlando di musica, adesso parleremo degli anni 50, appunto, 50 e 59, iniziando con un piccolo sottofondo musicale che ci accompagna dal 50 al 59. Esatto. Miles Davis. Il grande maestro del jazz ci accompagna dal 1950 a Burbe Condita 2703, l'anno in cui si uccide lo scrittore Cesare Pavese, quando poi il 15 febbraio esce nelle sale cinematografiche Cenerentola, un film di Walt Disney. Cenerentola, poveretto. Oh, ha cambiato la mia vita, scusatemi, io mi sento Cenerentola nella mia vita. Io sono Cenerentola! Non solo le tue sorti, la tua vita ha risollevato, quelli della Walt Disney Studios, che dopo la seconda guerra mondiale era ovviamente troncata, e quindi il cinema di animazione in quegli anni ritorna a livelli super, grazie a Cenerentola. Tra l'altro, il 2 ottobre nasce un grandissimo fumetto, Charlie Brown. Charlie! Dedicato a Cucchiaino, naturalmente, sapeva già che nascevi nel 1992. Snoopy! E... no, Charlie Brown, Charlie! Charlie! Mentre il 4 novembre del 1950 viene firmata a Roma la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ma passando ad altri argomenti e parlando un po' di musica, sappiamo di per certo che nascono due gruppi che noi personalmente non conosciamo, che vi invitiamo a conoscere, che sono i Duo Blanjo o gli OK Jazz, correggetemi se sbaglio. Mentre tra gli album pubblicati ovviamente ci sono 3 o 4 album tra il 50 e il 51 pubblicati da Miles Davis e ben 3 album pubblicati da Frank Sinatra. Dedicated to You, Song by Sinatra e Swing and Dance with Guarda Sinatra. Che ti sei sbagliato, lì c'era la doppia V, che vuol dire che praticamente è una V però raddoppiata, è Swing and Dance with Sinatra. Okay. Adesso è tutto più chiaro. Passando però al secondo anno del biennio 50-51, quindi al 1953-51, in cui è nato mio papà, in cui è nato il papà di Cucchiaino, ricordiamo che a Sanremo si tiene il primo festival della canzone italiana, Che culo, che viene vinto in quell'anno da Nilla Pizzi. Sanremo. Pensa che io la prima volta che ho letto Nilla Pizia, ho letto Nina Zilli, ho detto mortacci sua. Ma poi tra l'altro stava lì, esatto, già lì stava Nina Zilli. Ma già a quei tempi, figuriamoci adesso, diciamo 70 anni che si porta veramente molto bene. Ma lo sapevate che in Italia nel 1951 eravamo più o meno 47 milioni? 50 anni fa, no, 7 milioni. Alla fine non siamo aumentati così tanto. Infatti, il 4 novembre in Italia si svolge il nono censimento generale, il primo dalla fine della seconda guerra mondiale. Ma scusami, te non dicevi che ti rompevi le palle della storia e poi fai questi accenni storici? Vabbè, ma non posso sembrare solo questi stupido. Questi accenni, naturalmente, non storici, sembrare, non accenni storici. Non posso sembrare solo stupido, devo sembrare anche un po' colto, capito? Sì, peccato che sta leggendo al computer, bravo, eh? I nostri nonni si sono dati da fare. Porca miseria. Adesso, diciamo che la generazione si è... Bravi nonni! Il numero... Un applauso ai nonni! Un applauso ai nonni d'Italia. A tutti i nonni d'Italia. Nonni, nonne... 1951, una notizia che sicuramente a tutti noi quattro ci interessa, anche ai nostri coetanei. Ha cambiato la vita di tutta la nostra generazione. Esatto. Tutte le generazioni, ha cambiato il mondo. In Giappone viene fondata la Sega, che aspettate, nel senso non Sega, è quello che pensate voi. La Sega esisteva già prima, però no, sì. La Sega che si era un po' più peccato, però forse era un po' meno diffuso, ma comunque la Sega è quella che ci ha cresciuto a noi tutti, giocando a Sonic, a Super Mario, a tutti quei bellissimi giochi che ci ricordano l'infanzia. Sì, che poi coincide, cioè tutto quel ciclo lì di nuove tecnologie coincide con la fondazione, cioè con la presentazione del primo computer denominato Nimrod al festival di Brain. Infatti, per chi è uno smanettone, il Nimrod è veramente un universo, sta lì e fa Nimrod. Oh. Sì, esatto. Solo che adesso non ci fai più niente con Nimrod. ho capito, sì, però qualcuno ce l'avrà inventato. Fortunatamente spero che l'80% della popolazione italiana non faccia sia qualcos'altro. In che senso? Smanettona nel senso. Smanettona di computer. Sonic oppure. Quindi di conseguenza gliene frega poco di Nimrod, mi auguro. Spero che la maggior parte della popolazione italiana giochi a Siga. Il bello di questo computer è che attraverso i pannelli luminosi che stavano appunto sul computer potevi anche giocare a un gioco che di fantasia aveva un nome veramente assolutamente fuori dal contesto, che si chiamava Nim. Complimentone. Ma dai Nim. Complimentone. Naturalmente te che fai l'acculturato ma sempre davanti al computer sta a leggere. Non mi denigrare. Ma facendo quello che comunque vi riporta sempre, vi prende le redini. Ecco, lo faccio io. Ah, okay, nascono nascono nel 1951 The Moon Glows, che vorrebbe dire album. Album. Passiamo al prossimo punto. Miles Davis pubblica il suo solito terzetto di album annuale. Charlie Parker lo accompagna anche lui con una produzione notevole di diversi pezzi, ma direi che possiamo passare all'ascolto di un pezzo. Beh, sì. Che caratterizza questo biennio 50-51. Parlavamo di 1950, ci andiamo a sentire un pezzo da un album del 1950 di Frank Sinatra, precisamente è The Music Stopped. Sinatra. The music stopped, but we were still dancing, which goes to show that music has charmed. The lights were low. So we kept on dancing. I felt the glow of you in my arms. E naturalmente, se vi piace il pezzo, 0649 1750, e se vi è piaciuto pure il mugolare di Charlie, ancora nuovamente 0649 1750. Way off in the blue. Howdy. The music stopped, people were glancing, but we went on dancing, for we didn't know. Altrimenti, per voi dita veloci della generazione del Nokia 3310, potete anche scriverci un super SMS al numero 342 3574 357. The band had left the stand and we were in heaven, dancing on a cloud way off in the blue. The music stopped and people were glancing, but we went on dancing, for we didn't know, because the lights were low and we were in E torniamo all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa con Miles Davis del disco del biennio 52-53, che questa volta ci accompagnerà per tutta la puntata. E torniamo a fare un po' di cronaca e di gossip del biennio 1952-1953. Fausto Coppi vince il Tour de France, ma dai, Fausto Coppi, mio. Un mito Fausto Coppi per il ciclismo. Sinceramente, quando nel 52 andai appunto a vedere il Tour de France, fu un'esperienza fantastica. Soprattutto avvincente la sua sfida con il rivale Gino Bartali. Bartali! Ma sì, ma Bartali, non puoi sbagliare queste cose! Sì, che era un po'... Io sapevo, cioè, sempre nel 52, quando c'avevo la buona età di... 42 anni, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che c'era questa cosa, veramente questa sfida fissa, allucinante. Però sempre nel 1952 in Italia la Rai inizia, anche se ancora in fase sperimentale, e a dir vero poteva pure non iniziare per come andava a finire, nei giorni d'oggi inizia le sue trasmissioni televisive. E Minzolini aveva ancora i capelli. Ma da no! Hai le prove? Dimmi che hai le prove. Beh sì, qualche foto, qualche nastro, qualche fotogramma lo possiamo andare a raccattare nelle discariche dietro la Rai, sicuramente. Andiamo lì, però a devo dire, Rubra, glieli rubiamo. Però devo dire che la Rai di un tempo non era la Rai di adesso. Assolutamente, il carosello, Rita Pavone, sì, c'era proprio schifo, non c'aveva manco i colori, regà. Richard Benson, insomma c'era... Si stava meglio quando si stava peggio. Esatto, perfetto. A proposito, si stava meglio quando si stava peggio. Proprio il primo febbraio del 1952 il Senato vara la legge Scelba che vietava allora, però insomma forse è stata mal interpretata. Se la sono dimenticata. Vietava la formazione e la riorganizzazione di partiti e movimenti neofascisti. Io direi, vedi MSI o vedi tutta la merda che ci troviamo attualmente. Dopodiché andiamo a parlare un po' di ambiente. Tra il 5 e il 9 dicembre una densa coltre di smog avvolge Londra, provocando diverse migliaia di morti. Wow. E mi sa che non se n'è mai andata, tra l'altro. Sì, è sempre rimasta lì, adesso sì, piove, cioè, un po' come a Pechino. Mo' la chiamano nebbia. Ma quella non era Milano. Ma passando a discorsi un po' più leggeri, andiamo a parlare di band, le band che si sono formate nel 1952. Abbiamo i Dr. Dixie Jazz Band, Milan credo si legga a questo punto, però Milan College Jazz Society e seconda Roma New Orleans Jazz Band. Per quanto riguarda invece gli album, pubblica Thelonious Monk, Genius of Modern Music, volume 2. E proprio di Genius si parla, sì. Genio. E più tardi. Per l'appunto ci andiamo a sentire un estratto di Thelonious Monk. Ma passiamo al 1953. A febbraio viene approvata la nuova legge elettorale, che prevede il premio di maggioranza per la coalizione vincente, al fine di arginare l'instabilità politica. Sì, arginare l'instabilità politica, fatto sta che a quelle elezioni vinse comunque la Democrazia Cristiana, ovviamente. Comunque La cosa più importante è che nel 53 nasce mia mamma. E una cosa ancora più importante, secondo me, permettimi, importantissima, è che tale Edmund Hillary raggiunge per la prima volta la cima dell'Everest. Pensate voi che cazzo di polmoni ci doveva avere questo. Ah, vabbè, ma c'erano già le bombe, immagino. Quali tipo di bombe? Nel 17 aprile, ecco, invece. Appunto, stavo proprio per dire quello. C'erano stavamo già parlando state. Di maccartismo prima. E l'attore che penso tutti conoscano, Charlie Chaplin, fu messo sotto accusa dal maccartismo come filo comunista e annuncia che non farà più ritorno negli Stati Uniti. Ritornerà soltanto nel 1972 per ritirare il premio Oscar alla carriera. Oh, mo te dico una cosa invece che è molto più figa. Conta che nel 1953, il 17 maggio, quindi me lo ricordo bene perché me lo sono stampato sul braccio, viene cioè, inaugurato, capito, sì, viene inaugurato lo stadio olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria. Cioè, alla fine, lo stadio olimpico. Alla fine è una marmecca. Ah, una marmecca. Oh, dai, raga. Mo ricordo cucchiaino. Guarda, era ancora tutta pulita. Di no, dicevo cucchiaino, ma andiamo allo stadio olimpico. Andiamo allo stadio olimpico. Tra i gruppi più importanti. Vabbè, a me, raga, a me va bene andare allo stadio olimpico, cioè, alla fine. Tra i gruppi più importanti del 1953 abbiamo i The Platters, che sono gli autori di Only You. Come altro gruppo anche i The Drifters. Yeah, e invece yeah, l'album più importante è no, però il... manca un gruppo, aspetta, diciamolo. No, non ce l'hai te, diciamolocelo. Diciamocelo, che è quello più importante. Basta, dicelo, mi sono te, stufato, no? Di questa I vita Penguins. Americani Blue Blood, Penguins. Il mio gruppo preferito americano. Comunque una cosa volevo dire anche, che nel 1953 nasce anche la fondazione Taito, che non so se voi ricordate quel giochino che faceva ovvero Puzzle Bubble, signori. Si parla veramente di Puzzle Bubble e la fondazione Taito nasce in quell'anno. E nonostante l'album per eccellenza del 1953 sia Miles Davis with Horn, di per l'appunto Miles Davis, ma noi dai, ci andiamo ad ascoltare il genio Thelonious Monk, Round Midnight. Sulle note di Thelonious Monk vi annunciamo che purtroppo in questa domenica 20 maggio 2012 alle 18 non andrà in onda Jazzy come tutte le domeniche. Ci ha telefonato adesso, vi saluta e vi ridà l'appuntamento a domenica prossima, 27 maggio, sempre alle 18. Per questo vi faremo compagnia per qualche minuto in più, ma intanto vi rilasciamo alle note di Thelonious Monk. Thank you. tutto il sostegno del jazz per Jazzy. Caffè Doppio proudly presents Americani Blue Flap once in hour Baracca Caracas Blanca Para di Ciuccio. Ma che cazzo hai detto, dai? E vabbè, le notizie di Otrebla. Ti assicuro che qua l'atmosfera non è delle migliori. Bentrovati sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa con la rubrica che ci va a ricordare quanto è bello vivere nel paese dei furbi o come è bello far l'amore da Trieste in giù. No, no. Genova, il signor Adinolfi viene gambizzato. Si indaga immediatamente sulla FAI, Federazione Anarchica Informale, che ha rivendicato l'attentato nei giorni seguenti. Si torna a parlare di terrorismo e si schiera l'esercito nelle piazze, manco ci fosse a guerriglia. Ogni tanto ci dimentichiamo che se si parla di terrorismo, si parla di necessità da parte di chi fa l'attentato di sfruttare i media nel minor tempo possibile per evitare che si possa deviare l'operato. Il FAI rivendica l'attentato 5 giorni dopo. Punto 2. Se si parla di anarchici, si parla di persone che presumibilmente non sbagliano a scrivere il nome di Bakunin, famoso ispiratore dell'anarchia moderna, come invece risulta nel documento rivendicativo. Nel frattempo noi alimentiamo le paure e lievitiamo le spese militari per la sicurezza nazionale. Notizia dell'ultima ora, l'aereo diretto a Berlino che ospitava il neopresidente francese François Hollande è costretto a tornare a Parigi perché è colpito da un fulmine. Gli inquirenti indagano sulla pista anarchica. Non lamentatevi, lavorate di più! Così nella giornata di ieri un politico inglese ha scosso la Gran Bretagna con una frase a dir poco amara in tempo di crisi. Ricordiamoci che anche nel nostro bel paese non sono mancate le frasi super azzeccate dei vari Mr. and Mrs. Nella rapida carrellata andiamo a ricordare. Al terzo posto, la ministra Fornero che si rivolge agli uomini chiedendo di aiutare di più a casa. Un segreto messaggio al coniuge? Boh. Al secondo posto, il sottosegretario Michael Martone che dice chi non si laurea entro i 28 anni è uno sfigato. Forse il super mister non si rende conto che il problema non sono i laureandi, ma il sistema universitario intrinseco di carriere facili, di raccomandazioni e di baronie. Tanto è vero, signor mister, che dagli ultimi rapporti Alma Laurea fuoriesce una situazione a dir poco indecente, per cui sono circa il 20% dei neolaureati a non trovare lavoro. È immancabile della serie a mali estremi, estremi rimedi, e con questo andiamo a celebrare la frase che ricopre il primo gradino del podio. Beh, le giovani laureate senza lavoro possono sempre sposare un miliardario. Parola di Silvio Berlusconi. E anche questa settimana il paese dei furbi ne ha combinate di tutti i colori, anche se non c'è tempo per poterli elencare tutti, purtroppo. A voi la linea in studio. Sposami Silvio. Ma cosa sposami Silvio? Comunque grazie a Otrebla News e andiamo avanti con la nostra carrellata storica. Eravamo al 1952-53. Ma non rubare la parola, perché io poi piango e faccio piangere tutti insieme, tutti. Ladro. Scusa. Ladro di parole. Scusa. Lo chiamerei Berlusconi allora. Cri cri cri cri cri. Me lo dico da solo, che è un incrocio tra un grillo e Psycho. E parlando di 1954-1955, questo biennio, noi andiamo avanti con la colonna sonora di Miles Davis in questo biennio. Mamma mia, che ritmo, che ritmo. E parlando del 1954, il 3 gennaio la Rai inizia le sue prime trasmissioni regolari. Perché prima erano irregolari, mi sa. No, non erano irregolari, però cioè, forse erano come Onda Rossa. La Rai come Onda Rossa. Ma non paragoniamolo nemmeno. Per carità. Ma come di si Dio. Fa a paragoniare? Bestemmia. Mio ex nonno, compagni della Rai. Mio nonno avrebbe detto: non confondete la merda con la cioccolata. Comunque, c'è una cosa interessantissima. Il primo ottobre del 1954, perché in Italia il settimanale Oggi, che oggi è ancora più interessante di quanto lo fosse l'Oggi di ieri, pubblica il rapporto Kinsey sui costumi sessuali degli americani. I risultati del suo lavoro ebbero un'enorme risonanza presso la gente comune e furono immediatamente considerati controversi e sensazionalistici. Essi, infatti, sfidavano le conoscenze convenzionali sulla sessualità e si occupavano di argomenti che in precedenza erano considerati tabù. Quindi la credenza che l'eterosessualità e l'astinenza fossero una norma, statisticamente nonché eticamente, non erano mai stati messi in discussione prima di allora sulla base di una ricerca statistica o scientifica, insomma, di quelle dimensioni. Tra l'altro, negli USA sono messi in commercio i primi apparecchi televisivi a colori. Se ne potevano acquistare di diversi colori. C'era rosso, verde, blu e anche viola. E inoltre, sempre negli Stati Uniti, è messo in commercio il primo apparecchio radio a transistor, costruito in serie. Tutto questo sempre per vedere la Rai, ovviamente. Anche negli Stati Uniti, perché era fondamentale. Hai voglia. Certo, la Rai è internazionale. Assolutamente. Tra l'altro, c'è uno mattina fisso quando andavamo in campo scuola e mettavamo il televisore. Infatti, ma perché era l'unico canale che prendeva in tutto il mondo. Oltre io non so com'è possibile. Oltre a Rete Capri. Infatti, e Radio Maria. Infatti prima la Rai era Radio Televisione Internazionale, no italiana, capito? Sì. Tra l'altro, una notizia che interessa moltissimo quel rocchettaro di merda davanti a me, chitarrista, che fino a due giorni fa aveva i capelli fino al buco del culo. Mi stai parlando? Non capisco. La ditta americana Fender lancia sul mercato la Stratocaster, una chitarra dell'icona del rock, tra l'altro, che verrà sicuramente subito riutilizzata da ed acquistata da Otrebla. Da Otrebla nel lontano 1954. Nel 52 c'avevo 42 anni, nel 54 47. E la matematica non è un'opinione. Assolutamente. E i gruppi sicuramente che nascono in quegli anni, tra cui The Four Seasons, gli Spinners. Ma scusami, ma The Spinners? Ma, non, ma che nome è? No, vabbè, no, non, scusate, ma... Non si fa queste domande. The Spinners. Vabbè. The Isley Brothers and the Religious... E Marta Tomelli sicuramente avranno utilizzato la Fender Stratocaster. Soprattutto perché Marta Tomelli è un grande gruppo. È una grande band. Per quanto riguarda invece gli album, dobbiamo sottolineare l'uscita di Bill Haley col suo primo disco, che lancia il suo più grande disco intitolato Rock Around the Clock. E questo per tutti quelli che hanno visto la pagina Facebook di Caffè Doppio, che ce l'ha scritto. Bla bla. Cosa c'era scritto, Tameto? Tu che lo sai? Se vede, lo sa. Guarda che bella faccia. Ma io sono contro i social network. Vabbè, perciò... c'era scritto roccia intorno all'orologio. Lo sapevate invece che il 1955 per il calendario bizantino è il 7463/7464? Non mi chiedete perché. No, non lo sapevamo. Ecco, benissimo, adesso sapevatelo. E in questo anno, il 14 dicembre, l'Italia entra a far parte delle Nazioni Unite. In più, sempre in Italia, la Fiat presenta la 600, la famosa utilitaria per tutti e a basso costo per favorirne la diffusione anche fra i ceti meno abbienti. Per tutti quelli a cui piace andare a piedi, praticamente. E poi tra l'altro, un nome che ho sentito sempre dire da mia nonna, questo attore James Dean. Ma chi è James Dean? L'attore che fece il film cult Gioventù Bruciata. Poi, ma diciamo che poco dopo gli ha portato sfiga. Gli ha portato sfiga veramente, perché il 30 settembre muore in un incidente stradale. Però c'è sto nome, James Dean, che tutte le volte mia nonna: oh, ma lo sai quell'attore? No, nonna, non lo conosco. Tra l'altro, poi il 9 febbraio a Roma, dopo 13 anni di lavoro, viene inaugurata la prima linea della metropolitana di Roma. Pensa te, perché la metro C ci metteranno 40 anni di lavoro, quindi diciamo, capito, che era la linea B da Termini a Laurentina. Insomma, questa qui, che Cucchiaino ci saprà raccontare naturalmente quanto è bella e profumata. Allora, la mattina alle 9 è pieno così, e così intendo così, perché voi non lo vedete, però sto a fare un gesto così, insomma. Però poi nel pomeriggio si svuota un po', lo sapete pure voi che fate pendolari, insomma, con mamme che vado all'università. Non sai che mi sembri? Sembri uno, non lo so, tu per caso... Il 19 novembre del 1955 eri connesso sull'unico canale che a quel tempo aveva la Rai, e forse era meglio rimanesse quello rosso, quello oscurato. Viola o quello verde? Quello viola, che in cui andò in onda per la prima volta il grande quiz televisivo che poi caratterizzò tutti gli anni 50 in Italia e li rovinò, che si chiama Lascia o raddoppia? Punto interrogativo, il famoso Mike Buongiorno. 1, 2 amici, o... La tre amici telespettatori. Però qui le possibilità erano due, perciò il 3 deve essere stato uno sviluppo successivo. Cioè, lascia o raddoppia. Deve essere stato così. La 1 o la 2 non c'erano. Il 31 dicembre invece, il giorno di Capodanno, la società automobilistica General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre $1 miliardo in un anno. Diciamo che se sono un po' rovinati. Sì, esatto, sì, ma c'è una notizia interessantissima del 55-56, che è quella che riguarda il premio Nobel. Cioè, il premio Nobel in questi due anni, il premio Nobel per la pace, pardon, non viene assegnato. Nessun pacifico in quegli anni, nessuno parlò di pace. Non ci perché, sono paci, però... Perché B ancora non si era candidato. No, il nobile B non era ancora stato... neanche menzionato per il premio Nobel. Però purtroppo già era stato concepito. Però nel 55 c'è una cosa sconvolgente, ovvero esiste un gruppo che si chiamano i Marcellini, o i 5 Marcellini, che vanno fianco fianco, pari passo con i The Clancy Brothers e i The Parliaments. E anche con i Pane e Vini. Anche con i Pani e Vini. Esatto, i Marcellini. A quel punto sì. E invece tra gli album più popolari c'è ovviamente Domenico Modugno in Italia, con i successi di Domenico Modugno 1 e 2. Diciamo una cinquantina di canzoni, perché facevano queste canzoni da 2 minuti e 15 secondi. Sì, e tra l'altro che praticamente Domenico Modugno è famoso perché è stato il primo ad essere sopravvissuto lanciandosi dal quinto piano di un palazzo. Tant'è che scrisse quella famosissima canzone che sicuramente tutti voi conoscete, ma che non menzioniamo. Al ritornello faceva volare, oh. Ho detto di non menzionarla e tu me la menzioni. E dato che l'ha menzionata, io volevo dire una cosa su questa canzone. Questa canzone è una canzone molto importante per quei tempi, un po' perché ebbe un grandissimo successo in America, E per un secondo motivo che secondo me è ancora più importante, che però purtroppo non vi riveliamo adesso. Bensì adesso ci andiamo a sentire una canzone che abbiamo citato per quanto riguarda il 1954. Così facciamo in modo che qualcuno che mi sta tartassando sul cellulare con SMS continui si stia un po' in silenzio e si ascolti della buona musica. Andiamo a mettere Bill Haley, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Adesso tu che sai che sto parlando di te, ti alzi e balli nella tua dimora ovunque tu sia. Ma non mandateli a Otrebla i messaggini, mandateli a Radio Onda Rossa 342 3574 357. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right. Della folla su questa Rock Around the Clock di Bill Haley. Ma noi passiamo velocemente arrancando a questa giusto mezza parola sul pezzo che abbiamo appena ascoltato. Il l'assolo di chitarra che si sente a metà pezzo viene ritenuto il primo assolo della storia di fatti, insomma il primo assolo di quello stile. Pensavo fosse Jimi Hendrix, perché mi ricordo che ai quei tempi 56-57 ci fu Woodstock, vero. Bravo, te lo vuoi raccontare mio nonno. Era mio compagno delle elementari. Sì, è vero. E il 1956, che per il nasce calendario cinese. Ma quante persone sono questi cazzi pensa che siamo tutti interessanti. Il 1956, che per il calendario cinese è 4652/53. Queste cose sono abbastanza ambigue. Come dire, succede che tale Albert Sabin scopre un nuovo vaccino contro la poliomielite e rinuncia ai brevetti. Mentre a Cortina d'Ampezzo si tengono i settesimi giochi olimpici invernali. I settesimi giochi olimpici. Esatto, mentre il settesimi, tenore... Settesimi perché Cortina già c'era d'Ampezzo, capito? Certo. Mentre il tenore Daniele Barioni fa il suo esordio al Metropolitan Opera di New York. Il 21 aprile, Italia, esce il primo numero del quotidiano Il Giorno. Direttore Gaetano Baldacci e proprietà di riferimento Leni di Enrico Mattei. Mentre sempre nel 1956 negli Stati Uniti viene dichiarata incostituzionale la segregazione sugli autobus pubblici, fortunatamente, finalmente. Ma anche questa è un po' come la legge Scelba, diciamo che abbiamo vietato la riaggregazione dei fenomeni fascisti e di gruppi fascisti, ma non è riuscita molto bene e tuttora negli Stati Uniti non sta riuscendo molto bene. Eh già, il 4 ottobre invece dall'URSS viene lanciato Sputnik, che sembra una puttana, ma una parolaccia, ma non la è. In effetti è il primo satellite artificiale lanciato. Sì, che poi darà inizio a questa guerra. Diatriba. È una diatriba, è questa diatriba, è un'ostressione. È uno trebla tra l'URSS e gli USA, che cominceranno a farsi guerra per andare sullo spazio. E famosissima sarà poi negli anni 60 l'arrivo di Armstrong sulla Luna, falso hollywoodiano, eccetera, eccetera. E un'altra notizia: l'Andrea Doria affonda il 25 luglio del 1956. L'Andrea Doria si scontrò contro la nave svedese Stockholm della Swedish American Line in quel che fu uno dei più famosi disastri marittimi della storia. Mentre Elvis Presley, che ci andremo a sentire tra poco, comincia la sua carriera proprio nel 1956. Tra l'altro leggevo l'altro giorno che il suo produttore, pochi mesi prima di conoscerlo, disse: beh, se io dovessi scoprire un bianco con una voce da nero, farei veramente i soldi e cambierei la mia vita. Ed ecco che pochi mesi dopo conobbe Elvis Presley, sai, i casi della vita. Incide Heartbreak Hotel, canzone che diventerà uno dei suoi più grandi successi, rendendolo famoso in tutto il mondo. E mentre c'era Elvis Presley negli Stati Uniti, in Italia la canzone Che bambola di Fred Buscaglione è il successo musicale dell'anno. Pensiamo un po' a quali differenze ci abbiamo tra Italia e Stati Uniti da quel dì che venne. Tra i gruppi da citare nella carrellata del 1956 c'è il trio Joyce e i The Quarrymen, mentre tra gli album abbiamo già citato appunto Heartbreak Hotel, ma abbiamo anche Rock Rock Rock, che è considerato il primo album di Chuck Berry, e abbiamo anche il primo album di Elvis Presley dal omonimo, diciamo, quindi Elvis Presley, che viene pubblicato in Italia appunto nel 1956 e viene pubblicato in Gran Bretagna con il titolo Rock and Roll. Elvis è il secondo album fotografico nazionale. Sì, e perché era un modello Elvis Presley, me lo ricordo, un famoso modello della Calvin Klein. Esatto. Allora. Dillo, che devi dire? Cioè, una faccetta da dico qualcosa ma non lo dico. Perché vi cascano le palle se lo dico, cioè, visto che voglio bene, evito. No, no, ora lo dici, dillo. No, dai. Va bene. Singing the Blues è la prima compilation del celebre bluesman B.B. King. Sempre in quell'anno. Ma passiamo ad altri anni. Nel 1957 nasce la nuova Fiat. Nuova 500. Che è rimasta fino a noi, cioè nel senso la 500 è sempre quella che c'aveva i comandi vocali, che attacchi il cellulare col Bluetooth, no? Nel 1957. Sempre nel 1957, in aprile, viene pubblicato negli Stati Uniti il libro On the Road di Jack Kerouac, il libro autobiografico che lui fece, tra l'altro, incontrando tra gli altri Allen Ginsberg. Non mi ricordo bene, forse sto dicendo una gran puttana. Guarda, lo stai chiedendo alla persona sbagliata. Tra poco ci manderanno qualche insulto, via insulti. Anzi, ricordiamo. Il 3 febbraio del 1957 iniziano le trasmissioni del Carosello, che abbiamo citato prima, naturalmente. No, non ce l'avete i genitori che vi raccontano del Carosello? Guarda, quando spunta la televisione, questi ricordi dell'età passata di quell'Italia che c'era, adesso non c'è più. Con nostalgia appunto, l'Italia appunto, che c'era, non c'è più. Mia mamma che mi faceva: com'è bello il carosello, tanto bello, eccetera, eccetera. Che infanzia triste, te lo posso dire. Io al massimo, mia nonna che mi sta accanto mentre guardo la TV, appena cambia una scena, mi fa: che hai cambiato canale? Dai, no, rimetti quello di prima, scusa. I vecchietti di una volta non sono abituati alla tecnologia moderna. Ma il 6 luglio del 1957 due icone della storia della musica degli anni 60 si incontrano per la prima volta. E loro sono John Lennon e Paul McCartney. Chi? John Lennon e Paul McCartney. Che poi non sarà più lo stesso, tra l'altro. Ma chi? John Lennon e poi comunque quelli dei Beatles. Mentre il 13 aprile Justin Bieber. Esatto, mentre il 13 aprile a Milano apre il primo punto di grande distribuzione organizzata, Tokyo Hotel, supermarkets italiani. E invece il 3 novembre l'Unione Sovietica lancia nello spazio Sputnik 2. Il grande ritorno, sì, la vendetta. La vendetta. Sì, ma l'importanza di questa notizia è che per la prima volta un essere vivente viene mandato nello spazio. La cagnetta Laika, che non è povera una piagna. Non è una pianta, ma è una cagnetta. Nemmeno è poverina. Cioè, un essere perché? Che respira. Non è nemmeno un motore di ricerca in realtà Laika. E in ogni caso... Una cosa molto triste è che purtroppo Laika non è mai più tornata. Purtroppo. Purtroppo non è la cagna che vive in questo studio, purtroppo. Ma tra i gruppi del 1957 ci sono i The Dave Clark Five, i Johnny and Joe, The Kingston Trio e, ragazzi, signori e signori, il maestro Renato Carosone, il suo sestetto. Ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare in veloce frequenza i Tutti Frutti di Elvis Presley e non mi ricordo più Johnny Cash. C'ho un vuoto, no, l'autore me lo ricordavo, non mi ricordavo. I Walk the Line. Scusate. E comunque vorrei dire che d'altronde in quell'anno si formano anche uno dei gruppi più importanti della storia che ti ha ispirato molto molto. Sì. Che ti ricorda Woodstock anche. Sì, una canzone molto triste mi ricorda. I Simon Garfunkel. Bellissimo. Se lo dici così. Hanno, hanno questo accenno al medievale, questo accenno ai cori, ai canti, tutto a cappella, che è veramente fenomenale. Elvis Presley. Che cosa ho detto? Non lo so. Elvis Presley, Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Oh, Rudy. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Questa Tutti Frutti che Elvis, il famosissimo modello, compose nell'apice della sua carriera di Calvin Klein, il modello era, sì, perché veniva fotografata sempre con dei frutti, no? Perciò, diciamo, la fotografia veniva riempita con mele, pere, eccetera, e lui era stressato da questo lavoro, 1000 scatti al giorno e più, e allora Tutti Frutti, non ci capisco più un cazzo, precisamente, no? Bamboom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bop, bamboom. E siamo di nuovo qui, siamo sempre noi e siamo per mandarvi un altro pezzo storico e... Johnny Cash con I Walk the Line, che poi ispirò anche il film con documentario autobiografico di Johnny Cash, I Walk the Line, Johnny Cash. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. Ricordiamo che se vi piace il numero è 342-3574-357. Naturalmente potete anche insultarci. Già c'è stato... ci hanno mandato un messaggio di insulti. Ci piace molto leggerli. Comunque a nostra discolpa non è che non sappiamo leggere. È semplicemente che siamo tutti malati, abbiamo un po' di cecità e non riusciamo. Mi dispiace. E comunque se invece di farci uno squilletto ci volete mandare un messaggino, dovete utilizzare il numero che DVX vi ha appena dato. Esattamente. Got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. E se invece, come vi ho detto di non fare prima, però adesso vi dico di farlo perché sono un po' lunatico, volete farci uno squilletto, potete farlo al numero in sovrimpressione, che però non c'è la sovrimpressione, quindi ve lo dirò a voce: 0649 1750. Di nuovo gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Sulla sfumatura delle note di I Walk the Line di Johnny Cash, dopo aver ascoltato anche Tutti Frutti, lo scapoccio di Elvis Presley, andiamo avanti con il prossimo biennio, che non ricordo più quale sia, perciò lascio la parola. L'ultimo, no, dai. Sì, 1958-1959, per fortuna degli ascoltatori siamo arrivati alla fine, è stato una tristezza. Esatto, senti. Comunque, in quell'anno il rock and roll si diffonde in tutto il globo. E nel frattempo il Gatto Pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa viene pubblicato postumo dalla casa editrice Feltrinelli. Ma mi sembra un pochino Bruno Pizzul. Bruno Pizzul. Nel frattempo il Gatto Pardo di Giuseppe Tomasi oppure sembra un po' cinematografo Luce, capito? Il Luce ha deciso di chiudere la finestra stamattina perché faceva freddo. Allora si è coperto con un paio di calzoni più puliti di quelli della sera precedente. Viva il Luce. E no. Vabbè, no, ovviamente era entrato nella parte. Però dai, va bene. Il 31 gennaio gli Stati Uniti rispondono agli sporchi sovietici, detta da loro, perché è giusto che lo dicano. Lancio in orbita dell'Explorer 1, il primo satellite artificiale americano. E nel frattempo in Italia nasce la famosa SIP, che ancora tuttora e a tutt'oggi invade le nostre città, fortunatamente con il sistema telefonico italiano. Di cui tra l'altro abbiamo ancora qualche bolletta qui. io ho ancora il telefono SIP a casa, è bellissimo. Voglio pure i tombini con scritto SIP. Allora, ragazzi, adesso vi devo chiedere un favore però. Perché sappiamo, insomma, che siamo quattro ragazzi di 20 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso io leggerò una cosa. Ma tu non avevi 140 anni? Sì, è vero, nel 52 ne avevo 44. Cioè, si chiamavano Daniel Gray, che ne riportavo. Che visto che era avanti Cristo, gli anni sono diminuiti. E adesso 2 per 4, 6 per 7, 44. In ogni caso, vi leggerò una notizia che voi non dovete assolutamente commentare. Nel 1958 il Parlamento approva la così chiamata legge Merlin, che abolisce la prostituzione legalizzata nelle case di tolleranza. Passiamo avanti. Bravi, bravi. Il primo novembre, Borgo Sabotino, Latina, inizia la costruzione della centrale elettronucleare. Sarà la prima centrale ad entrare in funzione in Italia. Che culo. Ce lo ricordiamo perché c'è stato un po' di tempo fa un referendum che però non vale un cazzo, perché no, tanto esatto, qui okay. Non importa niente a nessuno, il non tanto del per popolo. Il nucleare, no, perché ce lo ricordiamo anche perché a Pagliato c'era quello della privatizzazione dell'acqua, non so se voi ve lo ricordate. Ma noi sì, perché siamo giovani. Strano, e ancora memoria. Strano, perché parecchia gente non se lo ricorda. Perché se vi arrivano a casa le bollette di Acea, dovete sapere che c'è ancora una percentuale di guadagno della società Che appunto si prende un guadagno dalla tua bolletta. Perciò tu in realtà dovresti pagare di meno, perché gli italiani hanno deciso di lasciare il servizio dell'acqua un servizio pubblico, un bene comune, mentre invece sti pezzi de merda continuano a sfilarci sì, i soldi dalle tasche. Siamo in Italia, ragazzo, e ricorda che la parola pubblico diventa privato nel giro di 30 nanosecondi. È proprio per questo che il termine più adatto in realtà è bene comune, perché pubblico vuol dire di proprietà delle istituzioni che ormai non sono più proprietà pubblica, diciamo così. Perciò appunto, bene comune invece è un termine molto più azzeccato, che insomma, vuol dire proprio nostro, più vicino. Gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa a favore dell'acqua come bene pubblico e contro il nucleare. E anche dell'autoriduzione della bolletta. Chiudo dicendo questa cosa: potete contattare tramite internet i vari comunicati per l'acqua bene comune e capire come fare per autodidursi la bolletta, perché è così, insomma, si paga di più di quanto si dovrebbe pagare. Attenzione, attenzione, però il 7 dicembre del 1958 avviene l'inaugurazione del primo tratto dell'autostrada del sole da Milano a Parma, e qua ci sarebbe un lungo discorso e ragionamento da fare riguardo a un altro tratto di autostrada che è fermo più o meno da quando io avevo 20 anni, quindi 1930 più o meno. Si parla della Salerno-Reggio Calabria, un tratto abbandonato a se stesso da anni e anni. Sì, ma perché quando mentre ci concentriamo di più su fare il ponte sullo stretto di Messina. Te ne sei accorto che quando parli di autostrade, la maggior parte delle volte questa è l'autostrada del sole, ma il mio pensiero andava subito alla Salerno-Reggio Calabria, ancora quella mistica costruzione che non è ancora detto che finirà mai. Assolutamente, chi lo sa? È un pallino nel cervello degli italiani. Speriamo che almeno a fare il TAV si sbrighino, no? Perché noi vogliamo assolutamente arrivare in 5 minuti a Lione, cazzo. Assolutamente, vogliamo rischiare la vita e andare a 600 km orari sotto una galleria, minchia. E pagare milioni di milioni per andarci, tra ovviamente, l'altro. È un'esperienza di vita che non mi posso perdere, complimenti. È un po' e come il bungee jumping. Soprattutto pagarli alla mafia, capito? Insomma, sì, no, appunto. Sempre perché siamo furbi, no? Ma sì, è un po' come il bungee jumping, appunto. È un'esperienza che devi provare nella tua vita, il tratto ad alta velocità. Sì, bungee jumping, però insomma è astratto, sì, è astratto, un po' astratto. Comunque se volete farlo per me va bene. Cioè, va bene tutto per me. Dei gruppi del 1958 ci giunge voce di un Alvin and the Chipmunks. Forse qualcuno se lo ricorda, tipo Alvin Superstar. Forse se lo ricordano più con quest'altro modo. Alvin quest'altro Superstar che è un immaginario gruppo musicale a cartoni animati creato da Ross Bagdasarian, Sir, SR, non si sa perché. Senior. Senior, sto scherzando, dai. Ogni tanto spuntano questi grilli a Radio Onda Rossa, siamo invasi. Insieme a quello che ha fatto la colonna sonora. Insomma, il gruppo è formato da tre scoiattoli striati cantanti. Appunto Alvin, il ribelle che diventò rapidamente una stella del gruppo, Simon, alto ed intellettuale, e Theodore, dolce e cicciottello. Ma non vi ricorda per caso Alvin Superstar? Ma giusto, no? No, ma più che altro Theodore, non vi ricorda il dolce e il cicciottello Tameto? D'altronde Alvin and the Chipmunks e Alvin Superstar sono la stessa cosa. Comunque, Tameto ti voglio in quell'anno tanto nascono bene anche i The Shadows e i The King Stars. Mentre tra gli album più importanti c'è di Domenico Modugno, che vi ricordo l'abbiamo citato poco fa come colui che si buttò per primo dal quinto piano di un palazzo, pubblica Nel blu dipinto di blu, anche insomma conosciuto come Volare, conosciuto negli Stati Uniti soprattutto come Volare, perché c'è una questione apertissima da questo punto di vista. Viene pubblicato in Italia come Nel blu dipinto di blu, mentre in America, negli Stati Uniti, viene pubblicato effettivamente come album Volare, perché perché gli americani si devono comunque sempre distinguere. Poi quanto siete poco americani, ragazzi. USA, USA. Esatto, andiamo a ricordare Homer Simpson, uno degli idoli, uno delle persone, dei padri che ci ha conosciuto. E poi per ricordare altri album, invece si parla di Frank Sinatra, un album che ha cambiato le sorti della terra e dell'umana stirpe. No, non è vero, sto scherzando, però è stato un album storico, che è Come Fly With Me, con una canzone strepitosa di Frank Sinatra. Come fly with me. Passiamo rapidamente al 1959. Nel 1959, lo sapevate? Diventa obbligatoria l'istruzione, che viene innalzata fino alla quinta elementare addirittura. Li mortacci loro, sti stronzio. Solo che Tameto è rimasto al 1957 ed effettivamente è rimasto alla quinta elementare, quindi è il più fortunato tra tutti. Inizia il miracolo economico, il cosiddetto boom economico che andrà avanti per tutti gli anni 60 fino alla crisi del petrolio del 73, e nelle case arrivano i primi elettrodomestici e le prime automobili, una svolta effettiva nella storia della povera Italia. Ma più importante è che il 13 febbraio inizia la commercializzazione della bambola Barbie, che ha reso felice tutti i presenti in questa sala, nell'ordine Tameto, sapete che gli davo Cucchiaino, fuoco? DVX, io gli davo fuoco. Io gli davo fuoco ai capelli, poi vedevo la torcia di Barbie, mi piaceva, e la lanciavo sul tetto del mio capannone, su in Piemonte. Guarda, io, cioè, pieno di Barbie. Io vabbè, io le Barbie non ce, l'ho, non ce l'ho mai avute, diciamo. Dai, dai, ammettilo, ci prendevi il tè. Crede. Però tè pasticcini con le Barbie. La curiosità più grande è che nemmeno mia sorella ce l'ha avute, però le bambole di mia sorella me le ricordo bene, appese a un filo che penzolavano da una parte all'altra della stanza. Ma noi due siamo due sadici, secondo me diventeremo criminali, assassini, boh, serial killer. Un po' macabri, comunque. O serial killer, come direbbe Tameto. Il 25 aprile, che voi ricorderete per un'altra motivazione, almeno in Italia, ci fu, spera, si spera, ci fu il primo caso di AIDS di cui si ha notizia. Sì, nonostante poi l'epidemia prenderà piede con la svolta degli anni 80, precisamente, sì, 1981. Sì, quello è l'inizio ufficiale, diciamo, l'ufficializzazione. Però il 13 agosto la Volvo introduce la prima cintura di sicurezza nel suo modello PV544. E a proposito, per riportarci tu, sai quante morte mi hanno fatto? Sì. E a proposito di automobili e di strada, un mese prima, no, due mesi prima, agosto, giù, il 15 giugno in Italia viene emanato il primo testo unico del codice della strada. I mortacci loro comunque. Ho tolto le parole di bocca a Tameto. Tutte queste cose, c'era da nascere. I mortacci tu che mi hai levato le parole di bocca. C'era da nascere negli anni Tanto 20. Io ho copiato pure il testo. Bravo, dillo in diretta, bravo, bravo. Ma vabbè, che fanno, ma tolgo una patente, scusa, mo ce l'ho, è mia, cioè che vuoi, ma tengo io, no? Adesso vediamo, in blocchi stradali in giro per Roma con una foto di un cucchiaino, i carabinieri stanno lì, l'ha visto per caso? L'ha visto per caso, sì, nel bar qua di fianco. Secondo me ne sarebbero capaci. Esattamente, stavo per dire la stessa cosa, sarebbero veramente in grado di andare in giro con la foto del cucchiaino. No, perché in realtà ci sono dei carabinieri che girano con un cucchiaio nel portabagagli, sapete perché? Per imboccare l'autostrada. Ma a parte ciò, noi vogliamo tanto bene sia a loro che ai loro compari della Polizia di Stato e a tutti gli affiliati, assolutamente. Il 21 ottobre del 1959 negli Stati Uniti viene inaugurato, precisamente a New York, il Guggenheim Museum, realizzato dal famoso architetto Wright, che mi capitò di studiare ai tempi quando feci la scuola superiore. Ma sei serio? Cioè io... No, è vero, non lo studiai. Ecco, bravo, era bellissimo vedere le immagini, cioè perché veramente sti palazzoni, queste case sull'acqua, o sbaglio, era lui che faceva le case sull'acqua, tutte sì. Mazza, che figata andarci a vivere, però effettivamente è impossibile da studiare. Lascia fa chi ne sa più di te. Allora, Frank Lloyd Wright, vabbè, comunque il 12 novembre in Italia il romanzo Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini vince il primo premio a Crotone. Il primo premio Crotone, scusatemi. Per protesta si dimettono dalla giuria il presidente della corte d'appello di Catanzaro e l'organizzazione perde il sostegno della giunta comunale. Non parlavamo di Dark Side of the Moon, ma adesso cominciamo a parlare di Dark Side of the Moon a proposito di Unione Sovietica, quando nel 1959, il 7 ottobre, la sonda russa Luna 3 fotografa per la prima volta... Luna Pop. Ragazzi, oggi i grilli a me è venuto a ridere. Ma ci hanno invaso i grilli, stanno qua a Radio Onda Rossa 87.9 FM. Insomma, questa Luna 3 in Unione Sovietica fotografa per la prima volta la faccia nascosta del nostro satellite, per l'appunto il Dark Side of the Moon. E si scopre, insomma, che l'aveva faccia nascosta da... perché c'aveva una faccia da culo. Non è vero. Adesso te lo dico io, mortacci tua, mi hai tolto le parole di bocca. Non è vero. Mortacci a vicenda. Ragazzi, tutte queste volgarità non comunque... è vero, non è vero, perché l'hanno nascosta perché hanno scoperto che sulla faccia oscura della Luna c'erano i Transformers e poi ce l'hanno detto solo col terzo film, ecco. Cioè, lei a casa ha i 20 Barbie, tra cui una della collezione proprio del 1958 59, ancora plastificata, ancora plastificata, perché giustamente è un pezzo d'epoca, quindi cortesemente torna a giocare con le Barbie tra i gruppi del 1900... una testa di Barbie morta dentro il tuo letto. Ricorda qualcosa? Allora, so. Torniamo a parlare di musica, però come gruppi ne nascono di nuovo tre: The Kingsmen, i Rory Storm and the Hurricanes and the Supremes. Come album, di nuovo, pubblica Miles Davis, ma guarda un po' quanto che avrà... David, che è un super pirata, saprà sicuramente quanto pesa la discografia di Miles Davis. Io? Io? Io? No. Beh, sì, comunque no. Pesa più 63 meno... giga. 63 giga. Signori, 63 giga, 63 di giga discografia, di ma sono più o meno 3 album ogni anno fino... Cioè, io leggo anche album del 90, anche se credo sia morto prima. Ci sono anche i remastered. Cri. Però sai, ci siamo dimenticato di dire una notizia molto importante. Questa canzone, due punti, eccetera eccetera. No, c'è una notizia importantissima su Frank Sinatra. Ah, e sì? Il cantante Robbie Williams, che qualcuno mi dovrà supportare a dire. Ma me lo so, che figo, no, è figo. Il cantante britannico Robbie Williams, che ha pubblicato un album, Swing When You Are Winning, dove sono presenti le migliori canzoni jazz e swing degli anni 50, 60, 70, ha dichiarato di avere poteri soprannaturali, che non può... Cioè, insomma, che può mettersi in contatto con Frank Sinatra. Vero? Sì, lui ha chiesto il permesso, in poche parole, a Frank Sinatra, The Voice, di pubblicare quest'album. Non è che puoi chiedere a Frank se ci passa un po' dei suoi diritti? ci farebbe grande aiuto, sai, ma c'è crisi. Magari più che i suoi diritti, io mi farei passare un po' di sua genialità, o magari un pochino della sua voce. No, sti cazzi, a me mi interessano i soldi. Materialista. E adesso una riproduzione delle chiacchierate tra Frank Sinatra e Robbie Williams. Pronto? Nonna. Sinatra? Ma chi cazzo è? Sarà B. Williams. Cazzo, ho sbattuto di nuovo sulla barra, li portacci. Ah, Robby, che cazzo vuoi? Voglio i diritti e voglio parlare un po' con te. Vabbè, no, i diritti, senti, già me l'ha chiesto il caffè doppio, li lascio a loro, mi dispiace. Poi che altro vuoi? 1-0. 1-0? È de campionato questa? No, sono interferenze, altri spiriti. Ah, ok, era Bruno Pizzul dal passato. Comunque, del mondo. Te stavo a di a Sinatra, ascoltami bene. E te lo chiede, no? Ma sta canzone, secondo te, la posso fa? Ma falla un po' come te pare. Io non ci ho mai capito un cazzo di musica. C'era sempre Gina che stava di là, che mi faceva il caffè e canticchiava. No, io scrivevo quello che canticchiava, capito? Non è che ho fatto sempre molto. Ma lasciami dormire, però, dai, per favore. La musa ispiratrice. Oh, Gina. Sempre con sto caffè, mortacci tu a tue strozzie caffè doppio. Scusate. Gina, fallo doppio, mi raccomando. Scusate. Scusa, sapete dove è il bagno? Ci sta in fondo a destra, raga. Cioè, sempre in fondo a destra, ah, il bagno. Okay. Comunque, grazie. Cioè, ciao, sono Robbie Williams io. Ciao, io sono tua nonna, mi dovresti conoscere. Sì? Nonna. Che commozione. Comunque. Comunque stiamo a fare una sitcom degna di Beautiful. Veramente orribile. E per questo motivo io vi tappo le bocche e ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, veramente un bel pezzo, che ha fatto la storia della nostra generazione, la storia del nostro paese. Volare, Domenico Modugno. Con una bestemmia. No. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare, non diceva cagare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo. Dai, almenico per Domenico Modugno, 342-3574-357. Fateci sapere se vi state per buttare da un palazzo e ci chiamate in diretta e ci dite volare. Cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con me. Insomma, con quest'ultimo pezzo, Volare di Domenico Modugno, arriviamo in chiusura di questa trasmissione del 20 maggio 2012, Caffè Doppio. Alle 18.17.42 secondi. Ancora sugli 87 e 900 della modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa per il 35esimo anno di fila vi fa compagnia. E allora, mentre ci avviamo alla chiusura, prima di ascoltare l'ultimo pezzo, volevamo fare un saluto, come al solito, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, un abbraccio sentito a chi ci ascolta nonostante è privato della propria libertà, e anche un saluto, insomma, solidale per quanto possiamo fare alle vittime e del terremoto di stanotte e dell'attentato di Brindisi di ieri. A questo punto vi cominciamo a salutare questo decennio 50-59, speriamo vi sia piaciuto, se non storicamente almeno musicalmente, insomma le produzioni sono state veramente tantissime, purtroppo non vi abbiamo potuto far ascoltare tutto quello che è stato prodotto in quegli anni, ma insomma sicuramente con i mezzi che ci sono al giorno di oggigiorno potete arrivare alla musica di quel tempo e ascoltarne tanta e tanta ancora. Non lo sapevo, lo sai? E comunque, cioè, a me, anche se abbiamo sentito solo una parte della musica di quegli anni, a me va bene così, cioè, a me va bene così. No, dici? No, sì, sinceramente, cioè, se vuoi ti posso scaricare la discografia dei The Penguins. Scaricare? No, volevo dire, posso scaricare? Guarda che la SIAE adesso viene dentro la radio rossa come la SWAT. Posso comprarti un CD dei The Penguins, di American bla bla, non so, di Modugno, lo sai, mi sa, tu ce l'hai? Cioè, secondo me mia nonna ancora sicuro ce l'ho, gli LP, Modugno, che sono la cosa migliore che esistano nel mondo. Cioè, soprattutto vabbè, se hai la possibilità. E approfitto per salutare la mia amica Angela di Siena, che sicuramente ci sta ascoltando. Angela che American ha Angela. Che ha un non mi viene il nome, aiutatemi. Un vinile? No, un riproduttore di vinili, non mi viene proprio, non si dice in questo modo. Un riproduttore di è grandissimo, un giradischi. Vi ringrazio per l'aiuto. Comunque adesso in chiusura vi lasciamo ascoltando un pezzo che comunque al di fuori di tutto quello che... che sono gli anni 50, gli... barra 59, esatto. barra 60, barra 70, penso sia uscito l'altro ieri. Un pezzo un po' più coinvolgente, dopo che comunque vi abbiamo... Tartassato a dir poco con queste note dolci tra Miles Davis e Elvis Presley. Comunque io volevo dire una cosa su Volare di Modugno. È una cosa molto importante secondo me, ed è la questione dell'interpretazione del testo di una canzone. Così veramente sembri Piero Angela, però te lo dico. Lo sapevate? Comunque in ogni sapevatelo. Caso sapevatelo, e una delle cose più importanti di questa canzone, a mio parere, è il fatto che attraverso l'interpretazione vocale dell'artista si riesca a dare il miglior sfoggio del senso del testo della canzone stessa. Sì, una bella cosa, è quello che riescono a fare anche a parer mio, diciamo, paragonando gli anni 50 al 2000, è quello che riescono a fare anche i miei amati Teatro degli Orrori attualmente, quindi facendo dei testi di denuncia e gridando al mondo intero la loro rabbia. Esatto. È una cosa estremamente importante. Quindi noi provochiamo tutti gli artisti che ci stanno ascoltando in questo momento dicendogli facciamo di questo, esatto. incazziamoci e prendiamo lo spirito del testo della canzone che stiamo cantando e utilizziamolo per interpretarla meglio. Facciamolo veramente col cuore, insomma, facciamo veramente musica come questo Volare, che ci rimanda proprio alla sensazione del volo. E come vi avevamo promesso, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che penso conosciamo in 6, che ci presenterà Tamedo perché ci tiene molto. Sì, un pezzo, prima di presentarvelo, vabbè sì, ve lo presento. Nicolas Jaar, Mi Mujer. Questo Nicolas Jaar che è un America cileno o un Cile americano, non so come un meglio dirlo americano. Ma prima di salutarvi dagli 87.9 di Onda Rossa, vi volevo ricordare il sito dove ci potete ascoltare sia in streaming sia in replica o podcast, www.ondarossa.info. E volevo salutare soprattutto chi ci sta ascoltando in replica di notte. In questo momento dovrebbero essere più o meno le 5:30 e le 6. In realtà un po' di più, però sì. Sforiamo. Beh, un po', sì, è vero, perché sono più o meno le 6. Abbiamo sforato un po' oggi. Sono più o meno le 6. Buongiorno, fatevi una bella colazione. E a questo punto chiudiamo, vi diamo appuntamento. Vi saluto, io mi sono dimenticato un saluto a un'amica, un'altra amica bella, lo so, tra ieri e oggi ho detto, ho promesso saluti a tutti che mi ha chiesto di salutarla ieri sera, non dirò ovviamente il nome perché non se lo merita. Esatto, Omar è l'amica bella. E vi lasciamo a Nicolas Jaar, Caffè Doppio vi saluta, vi rimanda domenica prossima sempre dalle 5 alle 6, questa volta senza sforare, promesso. Americani, ciao ciao! Ciao a io! Oye, dime si te sabes, si has visto mi mujer, te lo corto en la rodilla, un plato de ti. Oye, tú me hablas de sexo, de amor, pero yo no quiero saber dónde. Edizione straordinaria, scusate, torniamo in diretta. Siamo profondamente delusi da noi stessi perché dimenticavamo l'evento più importante del 1959. Momento di silenzio e di rammarico. Siamo profondamente pentiti e chiediamo perdono. Ci dispiace tanto, tantissimo. Un grande abbraccione al giovanissimo redattore di Radio Onda Rossa Banana, che nel 59 nasceva. Grande Banana. Banana, ciao! Americano Banana. Prendo il caffè e non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali?